البلاد طردوا الأجداد. صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو. فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال. صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو. قالوا يا سلام آه يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا نرجعها. صفقة جاو. Buongiorno Palestina. 143esima trasmissione su Radio Wombat. Nell'ambito di una società maschilista, dove si è imposto da sempre l'aspetto prevaricatorio, dove per emergere occorre la sopraffazione sull'altro, l'egoismo e la prepotenza, la donna è relegata in un ruolo di assistenza e cura della prole, e nell'esercizio di altre professioni il lato femminile viene spesso visto e considerato in modo subordinato e discriminante. Ogni anno, il 25 novembre, due giorni fa, si celebra la Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, istituita dall'ONU nel 1999. Se il femminile è attenzione, cura, proposta, ascolto, l'empatia potrebbe divenire un paradigma etico-politico per la rifondazione di una società più giusta. Un bel esempio di come il ruolo femminile possa intervenire e lavorare per una società diversa ce l'hanno dimostrato le due giovani, l'israeliana Esther Korani e la palestinese Rana Salman, co-direttrici di Combatant for Peace, un'organizzazione pacifista, che è giunta a Firenze domenica 17 novembre per un intervento al Circolo 25 aprile, nell'ambito di un tour che ha visto entrambe le ragazze in vari luoghi d'Italia dal 15 al 21 novembre, a Milano, a Torino, a Roma, per approdare infine a Napoli per il Festival del Cinema dei Diritti Umani. Le due attiviste sono state poi autrici di una conferenza stampa a Palazzo Vecchio, con la partecipazione del Presidente del Consiglio Comunale Cosimo Guccione e della Presidente della Commissione Consiliare 7, con competenza su pace, pari opportunità, diritti umani, relazioni internazionali e immigrazione, che si chiama Stefania Colesei. All'incontro, molto partecipato, è intervenuto anche Ugo Caffaz, della comunità ebraica di Firenze, che ha avanzato una proposta dagli sviluppi interessanti. Due eventi importanti al termine di questa settimana richiamano la nostra attenzione. Il primo è quello di venerdì 29, giorno dello sciopero generale. Nel momento in cui i governi occidentali della peggiore destra sostengono lo Stato di Israele, arrivando ad indicarlo come modello di rapporti politici e sociali, la presenza delle bandiere della Palestina ai cortei ha un particolare significato, poiché oggi la Palestina è simbolo di una lotta su contenuti che, pur in contesti diversi, sono quelli di dignità, diritti e giustizia. Contenuti che ci spingono al riconoscimento degli interessi comuni e all'unità. Il secondo evento, in ordine di tempo, ma non certo di importanza, è quello della manifestazione per la Palestina di domenica 30 a Roma, in cui i rischi di divisione del fronte palestinese sono stati superati, e oggi vi possiamo informare che la manifestazione per la Palestina del 30 novembre a Roma, come auspicato e sollecitato, sarà unitaria. In occasione della Giornata Internazionale della Violenza contro le Donne, che si è svolta lunedì scorso, merita una menzione particolare la conferenza organizzata dallo SPCGL su guerra, stupro come arma di guerra, apartheid di genere. In questa occasione Gianna di Assopace Palestina è intervenuta con un dossier dal titolo Israele, Palestina, donne, carcere, tortura e stupro, il cui testo è disponibile al link indicato nella pagina blog della trasmissione di oggi. Ascolterete tutto questo dopo la rassegna stampa a cura di Angela e un breve stacco musicale. Buongiorno Palestina, sono Angela. Eccoci come di consueto con la nostra rassegna stampa. Partiamo dalla notizia che in questi ultimi giorni ha tenuto banco a livello mondiale, e cioè il mandato di arresto emesso dalla Corte Penale Internazionale nei confronti di Netanyahu e Gallant. Ma come hanno reagito i diversi paesi e le organizzazioni dei diritti umani a questa decisione? Ce lo dice l'articolo pubblicato su Infopal dal titolo «Le reazioni di diversi paesi ai mandati d'arresto dell'International Criminal Court per Netanyahu e Gallant». Israele, tramite l'ufficio di presidenza di Netanyahu, ha fatto sapere che ritiene antisemita questa decisione, respingendo con disgusto le assurde e false azioni intraprese contro di esso. Per quanto riguarda i palestinesi, il portavoce di Hamas ha fatto sapere di ritenerlo un passo importante verso la giustizia, ma che deve essere sostenuto da tutti i paesi. La Giordania ha dichiarato che le decisioni della Corte Penale devono essere rispettate. Gli Stati Uniti hanno definito oltraggiosa l'emissione dei mandati d'arresto, rinnovando il loro appoggio incondizionato ad Israele e sostenendo che la Corte Penale non ha giurisdizione su questo caso. Il Canada fa sapere che rispetterà il diritto internazionale. Il Sudafrica ha accolto con favore la sentenza, affermando che questa rappresenta un passo verso la giustizia per i crimini contro la Palestina e contro l'umanità. L'Unione Europea, attraverso il capo della politica estera Borrell, afferma che i mandati della Corte Penale devono essere rispettati e attuati. All'interno dell'Europa però ci sono paesi come l'Ungheria che definisce vergognosa e assurda la decisione della Corte. Poi ci sono paesi come i Paesi Bassi, l'Irlanda, il Belgio e la Svizzera che rispetteranno la dichiarazione della Corte. Altri come Francia, Regno Unito, Svezia e Norvegia, pur rispettando il ruolo della Corte, non hanno definito chiaramente se procederanno all'applicazione del mandato. L'Italia, attraverso il ministro Tajani, ha dichiarato che valuterà come agire insieme agli alleati. Tra tutti i paesi europei va ricordato che l'Olanda, dove tra l'altro ha sede la Corte Penale di Giustizia, è stata la prima a segnalare la volontà di far rispettare il mandato di arresto contro Netanyahu, come riportato in un articolo pubblicato sempre da Infopal. La dichiarazione del ministro degli esteri olandese riflette infatti il sostegno che l'Olanda dà da molto tempo alle decisioni della Corte Penale. Rimaniamo in Olanda. Nell'articolo pubblicato su Zeitung dal titolo «La sindaca di Amsterdam ritratta l'uso della parola pogrom in relazione alle violenze Maccabi-Ajax». In seguito agli scontri avvenuti in Olanda in occasione dell'incontro delle squadre di calcio Maccabi-Ajax, la sindaca Femke Halsema aveva usato la parola pogrom per definire quanto accaduto. In seguito, resasi conto dell'uso improprio che aveva fatto di tale termine, in una trasmissione televisiva della TV nazionale ha ritrattato affermando che Israele, per voce di Netanyahu prima ancora che l'Olanda avesse ricostruito i fatti accaduti, aveva raggirato le autorità olandesi usando volutamente in una conferenza stampa durante la nottata il termine pogrom a scopo propagandistico. Ma cos'è un pogrom? Nell'articolo che ha proprio questo titolo, pubblicato da Amicizia Italo-Palestinese, l'autore Brendan McKeever, studioso di antisemitismo e razzismo, prova a spiegarlo. David Engel definisce pogrom come una serie di azioni violente collettive commesse da chi si ritiene parte di un gruppo etnico o religioso di rango superiore su chi considera parte di un gruppo di rango inferiore o subalterno, come è avvenuto in passato. in alcune regioni d'Europa contro gli ebrei, dove la legge proibiva loro la piena partecipazione alla vita civile. Quello che è avvenuto ad Amsterdam contro i tifosi israeliani non è un pogrom, poiché i sostenitori del Maccabi sono stati attaccati non in quanto ebrei, ma israeliani. Si è quindi volutamente messo sullo stesso piano antisemitismo e antisionismo. E questo è totalmente fuorviante. Terminiamo la nostra rassegna stampa con un articolo dal titolo «Attivisti pro-Palestina denunciano il sostegno del MoMA a Israele», pubblicato su Inside Art. Colpisce il fatto che un articolo del genere sia stato pubblicato da una rivista d'arte, e questo non può che farci piacere, visto il contenuto. Il 12 novembre scorso ci sono state manifestazioni di protesta fuori dal Museum of Modern Art di New York, più conosciuto come MoMA, che ospitava l'annuale Assemblea del World Jewish Congress, influente organizzazione guidata dal miliardario Ronald Lauder, presidente onorario del MoMA. Questo signore appartiene alla famiglia del famoso brand Estée Lauder ed ha una lunga storia di donazioni al MoMA, come quella di 65 milioni di dollari nel 2005. L'organizzazione di cui fa parte, appunto, il World Jewish Congress, ha affermato che è ingiustificato sostenere che Israele abbia creato uno stato di apartheid in Palestina. Ecco perché gli attivisti, in occasione della protesta, hanno srotolato uno striscione in cui c'era scritto: «Gli amministratori del MoMA finanziano il genocidio, l'apartheid e il colonialismo dei coloni». Al MoMA ci sono state anche altre proteste, sempre nei confronti dei vertici, in questo anno, come in occasione della cena del premio Theodor Herzl 2024, intitolata all'ideatore del sionismo, che celebrava personalità pro-Israele come John Huntsman e Tal Huber. Per oggi è tutto, restituisco la linea allo studio. Did it come to this? Don't know where I'm going, but I'm looking for eternal bliss. I'm like a rolling stone, I can't stay in one place. When you start to get bitter and you wanna get better, you gotta change the taste. I gotta hit the highway, yeah, here I go again. Got nothing in my pocket, but in my heart there's a burning flame. I'm a savage runaway since 1993. Got nothing in my name, but that's about to change. Cause I'm going to the wild, wild west, where the only rest is for the wicked. Where even if you do your best and you pass that test, doesn't mean you'll make it. Going to the wild, wild west, cause it's the best place for business. Got a can-do attitude and nothing to lose. So why the hell wouldn't I risk it? Sulla notizia di questi giorni, il mandato di cattura per Netanyahu, per l'ex ministro della guerra Gallant e il capo militare di Hamas, Diff, da parte della Corte Penale Internazionale, vi trasmettiamo un approfondimento di Ugo Giannangeli, compagno avvocato che si occupa di Palestina e uno dei primi firmatari contro il governo per il genocidio. Ugo Giannangeli è ai microfoni di Radio Blackout. E ti volevamo chiedere, insomma, prima di tutto, quali erano le informazioni che ci potevi dare su quello che è successo ieri, sull'emissione di questi due mandati di arresto. Va bene, allora io farei innanzitutto un piccolo salto all'indietro per chiarire che in realtà l'emissione del mandato di cattura è un mandato di cattura contro due soggetti, anzi tre soggetti, perché c'è anche Deif. È una vicenda questa molto antica, risale addirittura al 2009 e quindi alla strage di allora, quella chiamata, ricorderai, Piombo Fuso, poi ci furono altre stragi, margine protettivo e così via, fino al genocidio attuale. E questa vicenda giudiziaria è stata ferma per lungo tempo per problemi procedurali che poi sono stati riproposti ancora in questa occasione e la Corte preliminare li ha respinti, riguardano soprattutto la questione della giurisdizione. È stata decisiva per sbloccare la vicenda giudiziaria l'accettazione della giurisdizione da parte palestinese che risale al 2015 addirittura, è stato sottoscritto il Trattato di Roma ed è diventata la Palestina a tutti gli effetti Stato parte. Quindi è stata stabilita la giurisdizione della Corte, questo è molto importante all'esito di quello che è avvenuto ieri, la giurisdizione sui territori occupati nel 67, Gaza e Gerusalemme Est. È stata riproposta la denuncia dall'autorità nazionale palestinese nel 2018 per tutti i fatti, per tutti i reati, i crimini commessi da Israele dal giugno 2014 in poi. È stato a lungo giacente per una serie di motivi politici, giuridici, procedurali, non è qui l'occasione per ripercorrerli. Molto importante è stato l'impulso che ha dato una procuratrice ghanese, Fatou Bensouda, che ha aperto formalmente, finalmente, con molti anni di ritardo, l'investigazione. Già allora la Camera preliminare, in una diversa formazione rispetto a quella di ieri, ha riconosciuto la giurisdizione e infine abbiamo, come ultimo passaggio, non definitivo ma molto importante, ovviamente questa richiesta del procuratore Khan di arresto dei due più i tre di Hamas, ma sappiamo bene che per Haniyeh e Sinwar è stata trovata da Israele una soluzione diversa, sono stati uccisi. Ecco, questo per quanto riguarda una piccola così retrospettiva. Venendo al mandato di arresto, allora intanto precisiamo che i tre giudici che l'hanno emesso l'hanno emesso all'unanimità e questo ha una certa importanza. Poi, come ho detto, accennato, sono state respinte tutte le eccezioni di Israele che erano palesemente dilatorie, di nuovo la questione della giurisdizione, gli hanno ricordato che era stata già decisa nel 2021. Poi gli è andato il contentino, ha detto vabbè, comunque può essere riproposto in qualsiasi altro momento. E il mandato di arresto contiene moltissimi riconoscimenti a favore della questione palestinese, delle tesi dei palestinesi, sono stati riconosciuti come commessi crimini di guerra contro l'umanità dall'8 ottobre 23, dal giorno successivo al 7 ottobre famoso ormai, almeno sino a maggio del 2024. È stata scelta questa data perché è quella, come detto un attimo fa, della richiesta di Khan, è importante almeno perché naturalmente ipotizza che sono stati poi proseguiti questi crimini successivamente fino a ieri, fino a oggi, fino a stanotte, fino a stamattina. Un'altra cosa interessante che si legge tra le righe è che questi reati sono stati commessi insieme ad altri e questo lascia ben sperare che ci possa essere una ulteriore richiesta da parte della procura per altri soggetti. I due, Netanyahu e Gallant, sappiamo che sono dei civili, sono stati ritenuti superiori civili, ma responsabili anche loro per crimini di guerra. Tra le accuse mi sembra opportuno ricordare, molto importante, che è stata riconosciuta proprio la guerra della fame come metodo di guerra, questo non è molto frequente. Poi vabbè, l'omicidio, le persecuzioni, altri atti disumani, viene definito così proprio, atti disumani, si fa riferimento alle torture che vengono inflitte ai prigionieri, alle sofferenze che ha subito la popolazione, viene ricordato espressamente, pensa un po' agli interventi senza anestesia a seguito del blocco degli aiuti umanitari, della distruzione di ospedali e quant'altro. Si parla anche esplicitamente dell'attacco contro i civili e si dice, aspetta un mio appunto, ecco, che la popolazione civile è stata attaccata per motivi politici e questo integra il reato di persecuzione, altro che la ricerca dei militanti e quant'altro. Poi si dice ancora, molto importante, il minimo di assistenza umanitaria è stato concesso da Israele non per rispetto delle normative che lo impongono, quindi il diritto umanitario, ma per le pressioni della comunità internazionale o per qualche richiesta degli Stati Uniti, così a titolo di compromesso, chiaramente, no? Poi si fa riferimento a un crimine contro l'umanità, quello di sterminio, e si fa riferimento alla privazione di viveri, carburante, elettricità e quant'altro. Ora noterete che non è stato contestato il reato di genocidio, è stato ritenuto dall'altra Corte, la Corte Internazionale di Giustizia, come sai, a gennaio altamente probabile, ma lo sterminio, lo dice anche un po' la parola, è molto molto vicino evidentemente al genocidio, anche se è un crimine contro l'umanità. La Corte ricorda ancora che è stato ignorato completamente il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, il Segretario Generale, tutti i governi, la società civile, sappiamo bene che sono tutti antisemiti per Israele, punto e basta. Anzi, ho letto adesso, tra ieri sera e stamattina, un po' di commenti, la reazione di Israele è stata la solita, prevedibile, anche i tre giudici sono antisemiti e, se ricordo bene, è stato scomodato anche il processo Dreyfus. Ah, un'ultima notazione su questo aspetto, poi aspetto altre tue domande. La Camera mi ha colpito un fatto, che la Camera preliminare ha voluto spiegare espressamente perché ha rivelato l'esistenza di questi ordini e parzialmente anche il contenuto. E di solito sono segreti anche per ovvie ragioni, non si deve avvertire il destinatario dell'ordine. E ha detto: perché la condotta è ancora in corso, quindi ancora un'ipoteca sul possibile, probabile, mi auguro, proseguo dell'indagine per altri crimini, per altro periodo e per altri soggetti, e anche per fare sapere alle famiglie delle vittime che insomma c'era stato questo intervento, questo interessamento, così una pagina un po' di umanità in questo contesto giudiziario. From the traitors in Transjordan to clandestine British demand by the settlers' Zionist army that rampaged across the land. Oh Palestine, oh Palestine, we hear your desperate plea that once again across the land your people can be free. Oh Palestine, oh Palestine, your people live in fear. We demand from the river to the sea. In 1967, Israel did invade to conquer and to colonize what little had remained. The people of old Palestine once again their fates entwined with the Zionist occupation of their homes and weary minds. Oh Palestine, oh Palestine, we hear your desperate plea that once again across the land your people can be free. Oh state ascoltando Buongiorno Palestina su Radio Wombat. Passiamo ora alle voci dei combattenti per la pace. Ma chi sono i combattenti per la pace? Combattenti per la pace è un movimento pacifista di base, una ONG israelo-palestinese fondata nel 2006 che vede insieme israeliani e palestinesi accomunati dallo stesso desiderio di mettere fine all'occupazione e ad ogni forma di oppressione per ristabilire un quadro di vera giustizia come condizione preliminare per arrivare alla pace. Molte sono le attività dei combattenti per la pace. Per esempio, iniziative di coesistenza, in particolare nel periodo della raccolta delle olive in Cisgiordania, o scortando i pastori durante i pascoli o nella gestione dell'acqua piovana e nella difesa e riparazione dei pozzi. Offrono un sostegno economico per la ricostruzione di scuole e strutture danneggiate offrono iniziative di sostegno sul fronte legale, iniziative di occupazione per la popolazione femminile, cercando di valorizzare le leadership femminili. Organizzano delle visite con delegazioni anche con internazionali per vedere con i propri occhi la situazione nei territori occupati. Prendono iniziative in campo educativo organizzando scuole e corsi e gruppi di incontro con giovani israeliani, in particolare un anno prima del loro servizio militare. Organizzano seminari di azione non violenta, proiezioni di film, eventi teatrali e altre importanti iniziative di cui sentiremo parlare direttamente da Esther. Combattenti per la pace sono presenti anche sul piano internazionale nelle università americane con una organizzazione sorella che si chiama American Friend and Combatants for Peace. Ascoltiamo ora alcuni interventi delle due co-direttrici nella serata del 17 novembre alla 25 aprile. Loro ad un certo punto hanno capito che devono essere anche le donne nel movimento e devono anche avere uno spazio più grande anche per dire le cose che noi donne possiamo dire ogni tanto in un modo più chiaro di uomini e anche per dare lo spazio per prendere dei ruoli importanti. E così è successo che prima era Rana e nel 2021 per prendere il ruolo di direttrice palestinese e poi io dopo aver fatto tanti altri ruoli anche delle finanze, anche educazione dei giovani israeliani e sono diventata in questo febbraio la direttrice israeliana e questa è la prima volta che ci sono due direttrici e anche Lucia ha parlato del campo di pace, di tante organizzazioni che lavorano insieme cioè per gli israeliani normali è un giorno dove fanno commemorazione solo dei soldati civiliani che hanno perso la vita nel conflitto e noi insieme a Parent Circle facciamo una cerimonia alternativa dove c'è la commemorazione di tutti, anche palestinesi, anche israeliani che hanno perso la vita nel conflitto. E anche quest'altra organizzazione per la prima volta c'è la co-direttrice palestinese ormai un anno mi sa e due mesi fa c'è anche una donna israeliana anche in questa organizzazione come co-direttrice. Allora è forse anche una cosa, un'idea che le donne forse possono commuovere più la pace degli uomini. Cioè ci sono comunque tanti uomini che la fanno, però c'è un'energia delle donne che forse aiuta un po' di più per fare un cambio nel mondo e anche nella nostra regione. Ascoltiamo ora la voce di Rana Salman con la traduzione di Daniela Bezzi. Okay, I joined Combatants for Peace about 4 years ago. Oh, mi sono unita ai combattenti per la pace 4 anni fa. Before I joined, I used to work in alternative tourism. Prima di unirmi ai combattenti per la pace, lavoravo nel turismo alternativo. And this is about organizing tours for international groups che essenzialmente organizzava delle spedizioni per gruppi internazionali. Tours. Il titolo di questo gruppo era Peace by Pieces, pace a pezzi. And, okay. And the main goal was for international. E l'obiettivo di questi programma di diciamo di viaggi solidali era offrire non soltanto una visita ai luoghi santi, della Terra Santa, eccetera, ma un contatto reale con la gente, le problematiche delle persone e le problematiche derivanti appunto dal conflitto. So they meet with different peace organizations, they see the wall, they... Quindi appunto l'incontro con varie organizzazioni, la presa di contatto con il muro, la presa di contatto appunto con tutte le situazioni problematiche che caratterizzavano, che caratterizzano tuttora quest'area. And one of the meetings that I... Uno degli incontri che ho organizzato con queste delegazioni era appunto con Combattenti per la Pace. And it was very inspiring for me to... E io stessa palestinese sono rimasta molto molto colpita, molto ispirata nell'ascoltare queste storie di ex combattenti militari, eccetera, eccetera, ed ex militanti con anni di prigione alle spalle che avevano lasciato questa dimensione di violenza per imbracciare una visione di pace. I was inspired by their courage and... Ero ispirata dal loro coraggio, dal loro impegno per la non violenza. And they gave me hope that, e da loro ho ricevuto la speranza che qualcosa di diverso possa essere possibile. That there is another way. Che c'è un'altra strada. È il modo in cui sono diventata, mi sono sentita più coinvolta nel loro modo di operare. And when I first joined, e quando mi sono appunto accostata a questo movimento eravamo soltanto poche donne. Because when the movement was founded, it was more... Perché appunto, come abbiamo appena detto, quando il movimento è stato fondato era essenzialmente un movimento di uomini ex combattenti, militari. And for me, I don't share the same backgrounds of the movement. E naturalmente come donna non ho nessuna analogia con questo background. I'm not an ex combatant. Non sono un ex combattente. But era il momento appunto in cui i fondatori stessi erano pronti a dare più spazio a nuovi arrivi, compresi appunto la presenza di più donne. And this allowed more people who be part of the movement. E a permettere a persone che appunto erano impegnate con i principi della non violenza di diventare parte di questo movimento. So now we have more women, we have non-violent... Come in questo momento abbiamo più donne, più persone non violente di entrambi i sessi e soprattutto molti, molti più giovani. So people from all ages, from all religions. They... Con un programma appunto di liberazione per entrambe le comunità, perché insomma, this is the core philosophy, right? There is no... La filosofia di fondo è che non c'è la liberazione del popolo, dello Stato israeliano fino a che esiste l'occupazione dello Stato, della situazione palestinese, che inevitabilmente diventa la controparte di questa situazione di continua violenza. حفلة هالوين تلوين مرسيم عشمالك معالي أدومين طلاب أطلاب بتشوف علام طلاب خطاب بتشوف ألوال أخطر أحمر أصفر للنظام بتشوف أعوال عوام بتمر خطابات متمام ممثلين بتشور حر والشعب حر بالمظاهرات كل واحد قاعد بشقة صورني منيح بركي باخد لي منصب وبنترقى ترفع الراية للدعاية بعد صاية من التسلاية يلا شعارات وهتافات عالداير إعلام مسؤولية عن عملية ما نشخص فيها الجزيرة معك وضدك يا بتضويها يا بتضويها هل الهدوء يسبق العاصفة أم جليها خيرين عن نفس الكبس حلوة هي خليها بينقص موقف للقرار بيجي بستوضح قبل الفرار تبدأ المظاهرة بروح وكاميرات الاستجوار قناص معين كلاشينكوف مسجن بس لما دخل الجيش ليش ولا خشر مو طبيعي فولاذ افتح خط نفاذ معك 140 حرف تثبت انك للقضية مش شاذ من مثلث برمودا لدوار المنارة تنظيم في كل حارة حطوا خليل الوزير في وزارة حكوا وين على رمضنا كانوا متنبئين للمستقبل عدد سنين اخر النمرة 99 يهبل هي اجت الدورية سلطة صهيونية هي اجت الدورية سمو محسومة وحاجز بس Molte sono state gli interventi dal pubblico e molte le domande. Tra queste ne abbiamo selezionata una, ha risposto Rana Salman. Donne, non ci stupisce, a me veniva in mente le rivoluzioni della gente comune in Egitto e in Siria, in testa c'erano le donne. Sono state rivoluzioni che sono state stroncate, ma che sono andate al cuore della questione, l'unione. Cercare l'unione fra le persone, allontanare le divisioni. E infatti io per questo volevo chiedervi, si parla di liberazione collettiva, La domanda che vorrei farvi è: i palestinesi e israeliani da cosa devono liberarsi per poter raggiungere veramente la pace? Per me, palestinese, la cosa più importante è la liberazione contro l'occupazione. What does it mean to live under... Cosa significa vivere sotto l'occupazione? It means living... Significa continuamente vivere nella paura, nell'instabilità. You don't have, your... non hai libertà. You live under... Vivi sotto una legge militare. You don't have access to... Non hai accesso alle risorse fondamentali come l'acqua, l'elettricità. You live every day with... E vivi la tua vita nella continua lotta per i diritti fondamentali. And what we are facing right... E quello che stiamo affrontando adesso in questa nostra regione is that there is... è la paura che appunto abbiamo per l'altro. Because we don't know each other. Perché non ci conosciamo, in effetti. There is not only... Non c'è soltanto divisione portata appunto dai checkpoint, come si dice? Okay, checkpoint e dai muri. There is also like c'è divisione nella nostra testa, nelle nostre menti. What we are trying to do is... Quello che cerchiamo di fare è abolire queste mura nelle nostre teste per vedere l'altro. And we come, know... come essere umano, scusa. And we know that our... E sappiamo che il nostro futuro è collegato. Israelis are not going anywhere. Gli israeliani da soli non possono andare da nessuna parte, i palestinesi da soli non possono procedere verso nessun futuro, dobbiamo trovare un futuro insieme. في اليوم نسقيب دموعه ودمي شهيد دمي شهيد فيها قصة مكتوبة نصر بلادنا إلا من بحر النهر يا ما قلنا بكرة أحلى بس لا ما شفنا إلا قهر طلبنا بس حرية نعيش شفنا بس قتل وتهجير حتى نحكي لا ممنوع سجن حدود وسجن بتعبي وذنبه طفل الشهيد كان حلمه مستقبل زهيد واللي عايش طفل تاني بس اهله ميتين باللي صاير فينا على تربك ما تخلينا ودم الشهيد فداك يا وطني تبلي والله ما توحش ناس اللي جوتني كل يوم بحكوا لي صبري سلاحي واخر صبر الموت والكل شايف بس لا مش فارق صوتي حا وانا واقف وحدي العالم ضدي وانا مخشى سلموني روحي حتى الارض تعيش مستحيل ميت بقلبي في غزة اليوم تتعرض للإبادة وما كلمتينا من نصر ما شهادة فلسطيني شهيد منذ تاريخ الولادة وصبرا جميلا العدو سيزول وين الأمة العربية حال الوقت لنثور في بلاد الحق Combattenti per la pace, palestinesi e israeliani insieme per la liberazione collettiva è anche il titolo di un libro a cura di Daniela Bezzi, che raccoglie la storia, le testimonianze, l'esperienza di questa ONG. Alla realizzazione del libro hanno collaborato, oltre a Daniela Bezzi, ex corrispondente dal Giappone, Gran Bretagna e India e ora collaboratrice di Presenza, Luisa Morgantini, ex europarlamentare e presidente dell'associazione Assopace Palestina, Ilaria Olimpico, laureata in scienze internazionali e diplomatiche all'Università Orientale di Napoli e collaboratrice di varie istituzioni accademiche. Sergio Sinigallia, ex redattore capo del quotidiano Lotta Continua e collaboratore del Manifesto e di varie altre testate, tra cui Presenza. Il libro è stato pubblicato quest'anno dall'Associazione Multimage, APS, Associazione di Promozione Sociale, per la collana I Libri di Presenza, Agenzia Internazionale di Stampa. Il libro è stato presentato in un'affollata conferenza stampa tenutasi il 18 mattina alla presenza del Presidente del Consiglio Comunale Cosimo Guccione e della Presidente della Commissione Consiliare 7 Stefania Collesei. In quell'occasione Ugo Kaffaz della Comunità Ebraica di Firenze è intervenuto con una proposta. Ascoltiamo il suo intervento. Sven è il fronte operaio della liberazione della Palestina di Awame e la Sven è il Nofer, quindi poi negli anni c'è una cosa che lo dico perché a favore del tavolo della pace voglio che intendo il tavolo della pace a Firenze sono venuti insieme alla Fafri Simon Perez, c'è anche una foto in cui li ritrae su un divano in comune poi il comune di Firenze, la provincia di Firenze e la Toscana sono andati in Israele e Palestina almeno due volte dove l'ho incontrato, perché lì gli italiani palestinesi non tutti insieme, ma insomma l'hanno incontrato. Quindi a Firenze c'è un dialogo interreligioso molto importante, che quello è Papa, insomma c'è un dialogo importante, tra l'altro il 4 dicembre ci sarà alle murate l'incontro tra l'imam, il rabbino e un cattolico. Quindi Firenze è la città più adatta per un tavolo della pace, non solo questo del Palestina, ma tutti i conflitti che ci sono. Non so se lo sapete, ma al mondo ci sono 56 popolari di guerra, 56 popolari di guerra. E quindi oltre a questo terribile presidente dei palestinesi, un esempio è anche lì purtroppo ovviamente, in Siria sono morti 500.000 siriani, no, non una lotta interna civile, quanto ne dite uno? Parliamo con il Sudan e così via. Quindi il tavolo della pace, chi non viene ha tolto, no? Perché vediamo questi e quelli se non vengono che non vogliono la pace. E tra l'altro capisce molto delle due ragazze, questi ragazzi di oggi, perché mi risulta poi che io sono fiorentino, credo, la mia famiglia è tutta in Israele. Quindi tra l'altro dicevo prima. La bomba che è caduta sulla sinagoga ieri, per fortuna senza una sinagoga in cui ho pregato un po' di anni fa, quindi se c'è non sarebbe stato una cosa si fa. Quindi è vero, il tavolo è per tutti quelli di ora 56 sono loro, però sicuramente Ucraina e Unione Sovietica, non lasciamo così perché no, perché capito, Putin era il KGB, lasciamo perdere. Qui c'è due tessere, diciamo. E quindi il tavolo, ripeto, è tavolo del Comune di Firenze, convocato dal Consiglio Comunale, dalla Sindaca ovviamente, ma insieme anche a tutti gli enti locali che vogliono partecipare, sicuramente la Regione Toscana, sicuramente, che ha avuto una tradizione e che svolge l'attività di pace da sempre. Quindi questa è la proposta che intendo fare. Sono diventato curioso, mia moglie dice che è detto, sì, non dirlo, però fino a che sono un po' pesato, fino a che non ho detto che non ho detto. Grazie. To take that man away. Now the freedom moves in closer every day. Wipe the tears down from your saddened eyes. They say Mandela's free, so step outside. Mandela Day. Ooh, years ago this very day. Held behind four walls all through night and day. Still the children know the story of that man. And we know what's going on right through your land. 25 years ago. Dopo la conferenza stampa, le due co-direttrici di Combatants for Peace hanno rilasciato una breve intervista ai microfoni di Buongiorno Palestina. Chiudiamo questa trasmissione con l'appello all'unità di Bilal per la manifestazione nazionale del 30 novembre. Buongiorno Rana e Esser. Vorrei che voi ci parlaste delle difficoltà che incontrate nei vostri ambienti, sia nell'ambiente ebraico che in quello palestinese. Questo nel proporvi come promotrici di azioni non violente. Tu, Esther, durante la conferenza stampa hai parlato di esperienze che ti hanno aperto gli occhi, ma credo che non tutti i giovani israeliani abbiano di queste opportunità. E per te, Rana, qual è il rapporto tra te e il tuo ambiente? Le persone della tua età, l'ambiente palestinese, quali sono le difficoltà che incontri nella tua attività e in ciò che tu proponi? Rana. What is more challenging, especially at the current moment, is like recruiting. Ciò che è più difficile, soprattutto nel momento attuale, è reclutare i giovani per il modo di coesistenza che proponiamo. Perché non è molto diffuso e perché ora c'è così tanto dolore, così tanta rabbia, così tanta paura che ci proviene dall'altra parte. Quindi è molto difficile reclutare giovani disponibili per un incontro con giovani dell'altra parte. Quindi se considero la mia esperienza rispetto a quella dei miei fratelli o di altri giovani palestinesi, loro non hanno mai incontrato un israeliano. Per loro l'immagine tipica di un israeliano è o un soldato o un colono ed entrambi fanno paura, entrambi rappresentano un sistema violento. Quindi le opportunità di incontro non ci sono da noi e soprattutto dopo il 7 ottobre le occasioni e i luoghi che ospitavano possibilità di incontro si stanno riducendo. Non abbiamo un posto dove incontrarci o dialogare o creare iniziative insieme a causa della situazione attuale, delle restrizioni di movimento, della cancellazione dei permessi ai palestinesi. Non abbiamo più accesso ad Israele dal 7 ottobre, quindi diventa sempre più difficile per palestinesi e israeliani incontrarsi fisicamente, avere scambi e discussioni approfondite e lavorare insieme su iniziative di pace. Hai detto nella conferenza stampa che una scelta non violenta viene condivisa principalmente dalle donne. È così? Not only by women, but it's more becoming more people more aware about non-violence. Non solo dalle donne, ma la gente in generale sta diventando sempre più consapevole sulla non violenza e sull'uso della non violenza nelle nostre attività di coesistenza. Cerchiamo di insegnare questo principio anche alle nostre giovani generazioni per far vedere che c'è una possibilità di pace attraverso la non violenza, perché sappiamo che usando la violenza le persone possono vedere forse anche risultati immediati, ma si tratta di risultati che non durano. La non violenza richiede molto coraggio, impegno e pazienza, ma una volta che si produce un risultato, una volta che il cambiamento avviene, è per una soluzione più sostenibile. Si tratta di fatti che durano nel tempo, che costituiscono una soluzione pacifica e questo richiede molto, molto coraggio da parte loro e da parte di tutti. E tu, Esther, che cosa ci dici per quanto riguarda i tuoi coetanei nell'ambiente ebraico? Tu come sei vista? Come un'eccezione, come una persona strana, oppure trovi grosse difficoltà? E allora sì, no, non è facile, non ci sono tante persone che se dico in un modo apertissimo cosa faccio vanno d'accordo, però io cerco fare una conversazione con tutti nel livello dove la persona si trova e fare aprire gli occhi. Ho avuto una conversazione con mia amica che la sua figlia non potrà andare nell'esercito e lei ha detto che per lei è molto triste. E poi ha detto: "Senti, forse non è una cosa molto triste che lui non potrà fare la militare, lei può fare dei programmi di volontariato e forse anche in un modo, in un altro modo lei potrà contribuire alla società israeliana e prendere". E allora sì, per me è molto ovvio che non si deve fare la militare, e certamente quando la militare soprattutto è occupato per fare l'occupazione e non per fare delle cose che aiutano per vivere sicuri dentro l'Israele. Allora, questo è un esempio co come si può fare. Io cerco sempre a fare il primo passo. Il primo passo si trova in tanti posti. Una domanda brutale. Sei vista come una traditrice? Credo che nel circolo degli miei amici, anche colleghi del mio marito, la nostra famiglia, no. Certamente che ci sono delle persone che pensano che una come io è una traditrice. Ma avete rapporti con organizzazioni tipo Tayush? Sì, certo, lavoriamo insieme tanto. Bene, molte grazie. Leggiamo l'appello di Esther Korany e Rana Salman, co-direttrici del movimento israelo-palestinese Combattenti per la Pace, ai ministri degli esteri presenti al G7 di Fiuggi. Gentilissimi ministri degli esteri presenti oggi al G7 di Fiuggi, ci rivolgiamo a voi come movimento binazionale che vede insieme israeliani e palestinesi nella richiesta di pace. Chiediamo a voi che siete qui oggi per discutere il futuro della nostra regione di prestare attenzione alle nostre voci. Il nostro movimento Combattenti per la Pace è stato fondato nel 2006 per iniziativa di ex militari israeliani, ex detenuti palestinesi, che a un certo punto hanno deciso di unire le forze per coesistere con metodi non violenti all'occupazione in vista di un futuro migliore per entrambi i nostri popoli. Come ex combattenti che hanno avuto un ruolo attivo nell'uso della violenza, siamo consapevoli delle motivazioni che determinano il protrarsi del conflitto e come attivisti per la pace siamo in grado di vedere come un cambiamento sia possibile mediante la non violenza. Grazie alle tante iniziative condivise e messe in atto, sappiamo che israeliani e palestinesi non sono condannati a restare nemici e che le tensioni nella nostra regione non sono un'inevitabile fatalità. Nell'arco di 20 anni abbiamo toccato con mano la possibilità di una terza via. Ma è necessario che anche voi, nel vostro ruolo di leaders del pianeta, troviate il coraggio e l'unità al fine di intervenire. Il 21 novembre la Corte Penale Internazionale ha emesso mandati di cattura per il primo ministro Netanyahu, l'ex ministro della difesa Yoav Gallant e il leader di Hamas Mohammed Deif. Vi esortiamo a usare la vostra autorevolezza come decisori per rispondere con azioni concrete a queste accuse di crimini di guerra. Sono in gioco le nostre vite e quelle dei nostri figli. Da più di 416 giorni siamo in guerra. Troppe vite innocenti sono state stroncate dalle armi che continuate a inviare nella nostra regione. Invece di investire in armi, abbiamo bisogno del vostro sostegno e impegno ad investire in favore delle organizzazioni della società civile che come noi lavorano per la costruzione della pace. Inoltre, mentre gli occhi del mondo sono soprattutto puntati su Gaza, la violenza dei coloni israeliani in Cisgiordania contro i civili palestinesi è cresciuta a ritmo esponenziale. Questi atti criminali non devono continuare impunemente. Chiediamo che vengano imposte sanzioni contro la violenza dei coloni. Ogni giorno continuiamo a chiedere il cessate il fuoco, uno scambio di ostaggi e prigionieri, la fine dello spargimento di sangue. Ma come attivisti pacifisti di lunga data sappiamo che un cessate il fuoco non è sufficiente. Abbiamo bisogno di una soluzione politica che ponga fine all'occupazione e fornisca sicurezza, libertà e uguaglianza a tutti coloro che vivono tra il fiume Giordano e il Mar Mediterraneo. Il nostro lavoro su base binazionale sottolinea una verità cruciale. Il cammino verso la pace è irto di sfide, ma non impossibile. Promuovendo la comprensione e il partenariato, noi ex combattenti dimostriamo che la pace non è solo un ideale lontano, ma un obiettivo tangibile che può essere raggiunto da uno sforzo collettivo. Ci auguriamo che il nostro lavoro di combattenti per la pace possa essere un esempio di ciò che è possibile fare nella nostra regione e che, invece di continuare a promuovere la forza militare e l'esportazione di armi, tutti voi vi adoperiate per dare voce a voci come la nostra, nella consapevolezza che una soluzione militare non sarà mai garanzia di pace o sicurezza per nessuno. Vi invitiamo dunque a unirvi alla nostra visione della non violenza e a contribuire per una soluzione politica giusta per la nostra regione e per l'intero Medio Oriente. Grazie, firmato Rana Salman e Esther Koreni, co-direttrici per la Palestina e per Israele del movimento Combattenti per la Pace. Vi informiamo che la manifestazione per la Palestina del 30 novembre a Roma, come auspicato e sollecitato, sarà unitaria. Per la consueta rassegna musicale, nel corso della trasmissione di oggi avete ascoltato Bashar Murad in Wild West, O Palestine, O Palestine by Seth Staton Watkins, Half Tanakuri in Mukata, Rajin e a seguire Simple Mind in Mandela Day e per finire Sara by Rimbanna. E con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento per l'11 dicembre, sempre alle 17:30, sempre su Radio Wombat. Inshallah! Just a